la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, non ero in ritardo io, ma ero da Sebastiano Barisoni che mi aveva chiesto una cosa al volo. E buon pomeriggio in questo mercoledì 29 di aprile, sono le 16:30, primi 55 secondi, siamo in diretta dagli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo. Sono arrivate tra ieri e oggi un mucchio di proposte che vedrete nei prossimi giorni, di ascoltatori che ci hanno segnalato molti temi, non voglio dire divertenti, un po' amari, che diventeranno puntate. Quindi continuate a mandarci le vostre proposte, le vostre critiche, le vostre osservazioni, e avremo puntate come piacciono a voi. Oggi parliamo di una questione che viene da un po' di lettere scorate alla versione di Oscar @24.it, di ascoltatori del Mezzogiorno. So che è un tema di quelli che a molti fanno girare le scatole, però è un tema di fondo del nostro paese, e molti ascoltatori delle regioni meridionali ci dicono: boh, ma del Mezzogiorno a questo governo frega niente. Questa è un po' l'impressione, cioè non c'è proprio nessun tipo di riflessione particolare, non si vede nelle politiche del governo niente di particolare. L'impressione è quella che sì, con le politiche del governo, gli 80 euro, la decontribuzione ai contratti a tempo indeterminato, ci dovrebbe essere una ripresa per tutto il paese, e poi sì, ce ne sarà anche un po' per il Mezzogiorno, però il punto di fondo è che dal 2008 in avanti il gap del Mezzogiorno è drammaticamente peggiorato su tutto. Cioè bisognerebbe riflettere su questa Italia che ha dentro di sé parti che sono come medie, di reddito, di produttività, di export, di sofferenze bancarie, perché anche questo è un grande problema, che sono migliori di quelle di alcune land della Germania, e una parte d'Italia che ha delle medie che sono come quelle della Grecia. Ecco, siccome questa è la realtà che ci consegna la statistica, la contabilità economica pubblica e privata del nostro paese, mancare di riflettere su questo significa tentare anche di dimenticare 20 anni di fallimenti col cosiddetto federalismo, perché poi questa è la sottostante realtà di fondo. Però molte lettere di questo tipo ci hanno indotto a dire: dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori di intervenire all'800240024 e con il 349-238-6666 sugli sms per dire: ah, condividete questa impressione di alcuni ascoltatori nostri del sud, che del sud in realtà freghi più niente a nessuno, a cominciare dalla politica, ma non ci sia proprio nel dibattito pubblico. B, pensate che alla fine sia anche tutto sommato giusto così, e però ci dovrete spiegare perché, perché nel frattempo non è che abbiamo preso la decisione di separarci, quindi ciascuno pensi a se stesso. Nel frattempo chi sta peggio starà sempre peggio, perché questo ci consegna come proiezione l'incredibile addensarsi di povertà, basso reddito, desertificazione di impresa molto più a sud che al nord. Ricordo a tutti che negli anni 2008-2009, quando esplose la crisi, fu il contrario, perché era una crisi che colpiva la base produttiva che esportava, e il PIL cadde più su che giù. Dal 2011 in poi è il contrario, il nord esporta rispetto al 2008 oggi tra il 120 e il 125, fatta 100 la base del 2008, il sud è sceso a poco più di 90, per capirci, in un quadro in cui l'export italiano è la cosa a breve che ci fa crescere di più. Abbiamo fatto 392 miliardi di euro di esportazioni nel 2014, quest'anno la stima è che potremmo salire a 415-420, però il problema è che il sud ne ha perso di export, come ha perso in produttività, occupati, eccetera eccetera. Se andiamo a vedere i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, la differenza per quello che riguarda giovani, donne e over 55 è di più di 20 punti rispetto ad altre regioni del nord. Abbiamo redditi medi che sono nelle parti più povere del Mezzogiorno di poco superiori a un terzo rispetto ai redditi medi che ci sono, eccezione fatta per il Trentino che li ha elevatissimi, ma a quelli di Lombardia o Veneto, per capirci. Insomma, se andiamo a vedere, ripeto, i guai nel credito, ecco, la caduta di credito per i mutui ai giovani, credito al consumo, quindi la parte di reddito più poveri, e la concentrazione di sofferenze bancarie, ecco, il sud è tutto in rosso in una maniera tra il 70 e il 200% superiore a quello che capita nelle regioni settentrionali, quindi è comunque un enorme problema. Allora, questo è il tema della giornata, e ora vi presento un ospite, perché abbiamo approfittato del fatto che c'è una riflessione speciale su questa avanzata che vi illustrerà appunto l'ospite tra poco. Lasciatemi solo dire due cose relative alla giornata, perché siccome tra 48 ore comincia l'Expo a Milano, c'è in corso una cosa molto singolare, perché sapete, avete già letto sui giornali che ieri la questura ha identificato un po' di anarchici di diversi paesi europei concentrati qua, e ha chiesto dei provvedimenti di espulsione coatta, accompagnamento alle frontiere, trovando molotov, martelli, eccetera eccetera. I giudici l'hanno respinta, la questura 2 ore fa ha richiesto il bis. Io non mi pronuncio da garantista su perché i giudici l'hanno respinto. Io mi auguro solo che non arriviamo alle ore prima dell'Expo a dare anche lo spettacolo di un paese che sul coordinamento delle misure cautelari di sicurezza si spacca in due, perché poi qualunque cosa avvenga facciamo una figura ancora più barbina. Forse in queste occasioni quantomeno, no? Un po' di coordinamento di queste misure preventive sarebbe auspicabile, però vedremo. Per il momento mi limito a lanciare un piccolo allarme. Seconda cosa, so che molti di voi chiedono anche che ci occupiamo della fiducia, dell'Italicum e così via. Perdonate, non la considero una cosa degna di tutta l'attenzione che ha sull'informazione. Vi dico solo che comunque 2 ore fa 50 deputati su 70 dell'area riformista, cioè della minoranza PD, hanno dichiarato che loro non seguono Bersani, Letta, Speranza e tutti gli altri nel non votare, stanno dentro e votano, e quindi mi pare game over. Questa è la mia brutale opinione, al netto del fatto che la legge elettorale non mi piace, ma questo riguarda me. Allora, andiamo invece al tema della giornata, cioè il sud sparito dall'agenda pubblica nazionale. È con noi per parlarne Alfonso Ruffo, il direttore del Denaro, un quotidiano economico napoletano, che proprio su questo tema ha lanciato un manifesto per il nuovo Mezzogiorno, e questo manifesto vive della collaborazione di straordinari economisti italiani, Paolo Savona per esempio, che io considero in piccolo un punto di riferimento essenziale per tutta la mia vita, altri come Massimo Lo Cicero e così via, che articola in diversi punti l'irriducibilità nel volere creare strumenti e occasioni, non del vecchio assistenzialismo, ma però per rimettere al centro dell'agenda pubblica nazionale questa priorità. Se noi non abbiamo una testa puntata su come si fa a recuperare il gap lì, è l'Italia che non si muove, perché significa che c'è non solo uno dei suoi due motori che non funziona, ma significa che oltre ad avere uno dei due motori che non funziona c'è un difetto di portanza di tutto l'aereo. Questo è il punto di fondo. Non chiedere quindi assistenzialismo, ma fare un conto preciso delle risorse che possiamo ricavare dall'Europa in maniera diversa da come facciamo adesso. Ho concluso la mia introduzione ricordandovi, per esempio, che un terzo del finanziamento per la decontribuzione dei contratti a tempo indeterminato, per stabilizzare questa misura da cui ci si aspetta molto sulla ripresa del mercato del lavoro italiano, e infatti i primi mesi sembrano dire che sta avvenendo una rotazione dei contratti dal tempo determinato al tempo determinato, però per 3 miliardi e mezzo quei fondi sono sottratti al sud. Ecco, non so quanti lo sapessero, però è un'altra bella prova di questa maniera di non occuparci di questa priorità. Allora, innanzitutto grazie a Alfonso Ruffo, direttore del Denaro, per essere con noi. Buon pomeriggio. Ciao Oscar, grazie a te per averci chiamato. e grazie anche a Paolo Savona per accompagnarci in questa riflessione. Professore, buon pomeriggio. Buonasera. Allora, Alfonso, ci dai un inquadramento generale dell'iniziativa di questo manifesto, di come si articola e che obiettivi ha? Sì, questo manifesto nasce dopo un bel periodo di lavoro fatto con un gruppo che è fatto dal nostro gruppo editoriale, Il Denaro, una fondazione, Matching Energy, che fa capo a un imprenditore di successo come Marco Zigon, e poi un gruppo di intellettuali, professori universitari come Paolo Savona, che è alla testa di questo drappello di persone, di cui fa parte, come hai ricordato tu, Massimo Lo Cicero, ma Mimmo De Masi, anche Luigi Nicolais, Dominique Salvatore. Abbiamo fatto diversi incontri, perlomeno 4 incontri nel corso di un anno, con un centinaio di persone tra professionisti, imprenditori. Insomma, alla fine è venuto fuori un manifesto che noi abbiamo battezzato delle tre: economia, etica ed estetica, alla base di una possibile rinascita del Mezzogiorno. E poi abbiamo distillato 8 punti tra i tanti che ci erano stati proposti come punti qualificanti di una politica nuova per il Mezzogiorno. Oggi abbiamo presentato il manifesto degli 8 punti alla Camera all'intergruppo parlamentare per il Mezzogiorno, che è coordinato da un bravo deputato meridionale come Luigi Famiglietti. Abbiamo avuto una trentina di deputati che hanno partecipato di ogni partito, e abbiamo visto che c'è comunque una volontà comune di agire su questo tema. È venuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozzi, che ha manifestato anch'egli una grande volontà di collaborare a una ripresa del Mezzogiorno, perché è chiaro a tutti, come dicevi tu nella premessa, che le medie in Italia non valgono. In Italia ogni regione ha un suo PIL, ogni regione ha una sua storia a sé, e la media è falsata. Non si possono fare politiche per la media, che non valgono per nessun luogo, ma bisogna fare delle politiche specifiche, e questo vale soprattutto nel Mezzogiorno, che è l'area più depressa d'Europa. A questo proposito, è a conferma del fatto che non c'è nell'agenda, secondo me, neanche del governo, la delega per la coesione territoriale, e che è la delega che fa il front bench, cioè che ha la relazione ufficiale con l'Europa, Bruxelles, per tutti i fondi di coesione dei diversi obiettivi, che era attribuita formalmente in questo governo a Graziano Delrio, fino a che Graziano Delrio era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con il suo passaggio al Ministero delle Infrastrutture non è stata riattribuita, e quindi attualmente non c'è un interlocutore ufficiale del governo sulle politiche di coesione con i fondi comunitari e con Bruxelles. Anche questo qualche cosa vorrà dire dal mio punto di vista. Professor Savona, cerchiamo di spiegare un pochino queste 8 proposte non ordinarie per il Mezzogiorno, che filosofia hanno e che tipi di obiettivi e di risorse potrebbero mobilitare. Ma se permetti, occorre però un cappello a questo, direi. Ci mancherebbe. Noi riteniamo che noi conosciamo la storia dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, e il nostro giudizio, naturalmente per farlo breve, è che esso ha portato dei vantaggi ma ha fallito sul piano culturale, nel senso che praticamente il Mezzogiorno ha concepito questo strumento non tanto come un modo per emergere dal sottosviluppo in via definitiva e collocare la propria economia nel contesto italiano, europeo e internazionale, ma solamente per rafforzare il tipo di assistenza, la vocazione assistenziale. Per questo motivo, senza disconoscere il fatto che tu improvvisamente non puoi togliere la droga a un drogato, perché allora hai problemi di crisi di astinenza gravissima, che è quella che il Mezzogiorno sta vivendo, e abbiamo proposto, sulla scia ormai di un termine che la politica monetaria ha introdotto nel sistema, una politica non convenzionale per il Mezzogiorno, che abbia, direi, il suo epicentro nel problema della formazione culturale dei gruppi dirigenti. E quindi negli 8 punti esordiamo affermando: bisogna riportare nel Mezzogiorno e rilanciare, mentre si parla di chiudere, l'esperienza della Formez per organizzare, per istruire nuovi gruppi dirigenti, i quali non abbiano, direi, una impostazione della loro attività che sia puramente assistenziale, ma che a un certo punto badino al mercato, alla possibilità di affermare i propri prodotti. Abbiamo inoltre visto che il turismo potrebbe dare molto al Mezzogiorno, e quindi proposto di creare una scuola internazionale di turismo per educare sia i manager che, direi, i servitori in questo sistema, i lavoratori di questo sistema. L'altro punto è, direi, la creazione, questo è un suggerimento di De Masi, delle navi della conoscenza, che è un esperimento che è stato fatto nelle favelas con successo, nelle favelas brasiliane, cioè dei centri dove il sistema informatico in tutti i campi, dalla filosofia alla matematica, allo stesso calcio, insomma, mette a disposizione dei giovani che così vengono tolti dalle strade, divenendo in questo caso, direi, sottraendoli alla criminalità, i quali possono trovare il modo di studiare qual è la loro strada per il futuro. Naturalmente queste iniziative, che non sono estremamente costose, perché i servizi informatici di istruzione sono ormai a disposizione e gli enti internazionali sono in grado di fornirle. Quindi questi sono i tre punti. Però naturalmente tutta questa realtà poi deve calarsi in un'economia che funziona. E allora occorre mobilitare tutte le università del Mezzogiorno per creare un parco progetti. La BEI dice che l'Italia non ha progetti a sufficienza. Il piano Juncker conferma questa impostazione, per cui io penso che un progetto a rete per l'intero Mezzogiorno sia possibile farlo senza grande spesa e mobilitando le risorse del paese. Allora, adesso ci fermiamo, professore, per 60 secondi di informazione stradale. Torniamo e le faccio subito una domanda, chiedendole di rispondere. C'è un punto anche che a me interessa molto, secondo me anche a chi ci sta ascoltando, che riguarda la legalità che voi mettete tra le vostre proposte. E c'è un punto che riguarda il reperimento delle risorse, che a me sembra molto interessante, perché è un punto che le farebbe discendere come una quota parte del beneficio che Mario Draghi e la BCE stanno dando all'Italia e daranno quantomeno con sicurezza fino all'autunno dell'anno prossimo. Allora, su questi due punti torniamo intanto a strade. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48 primi 22 secondi, il Sud, tema del giorno, e con noi Alfonso Ruffo, il direttore del Denaro, che ha lanciato una iniziativa straordinaria insieme a intellettuali, economisti, accademici, professionisti, manager, imprenditori, su questo programma di 8 proposte non ordinarie per il Mezzogiorno. E con noi il professor Paolo Savona, che insieme ad altri economisti le ha redatte. Mi tocca dire che il più degli sms non mi stupisco di questo, dei nostri ascoltatori al 3492386666, e continua a ragionare sul fatto: ma non vi sono bastati decenni e decenni di esito disastroso dell'assistenzialismo nella cassa del Mezzogiorno, nella tutta la sua parte finale, dopo i primi gloriosi anni del secondo dopoguerra, in cui invece ebbe l'intervento straordinario un oggettivo merito, no? Di riaccumulazione delle risorse per la crescita. Avete sentito che però il professor Paolo Savona parte proprio da questa acquisizione, quindi non si tratta affatto di riproporla, ma di farne tesoro. Secondo molti di voi, ancora un altro bel po' di sms dicono: ma se mancano le risorse, per tanto vale concentrare quelle possibili sulla parte più produttiva e che esporta di più, perché altrimenti avremo ancora meno ripresa. Questa è un'obiezione di cui molti sono convinti, che nel breve potrebbe anche ottenere l'effetto che immaginate, ma non riequilibra complessivamente però la portanza dell'aereo complessivo Italia. Questa piccola osservazione. Allora, professor Savona, io l'ho interrotta prima chiedendo due riflessioni, una sulla legalità e l'altra sulle risorse che potremmo ricavare da quelle che la BCE dà anche all'Italia fino all'autunno dell'anno prossimo. Bene, ci stava arrivando proprio. Il problema che noi poi proponiamo è un'applicazione di una politica di tolleranza zero, tipo quella che il sindaco Giuliano di New York ha applicato su New York. Qua vanno applicato nelle grandi città. Naturalmente questa operazione deve partire simultaneamente alle navi della conoscenza, per raccogliere dalle strade giovani e chi è meno giovane ma vuol partecipare, vuol istruirsi. Per cui il discorso della tolleranza zero, che è nella natura stessa delle persone. A Napoli la reazione tipica è che: ma perché fate questo? Perché noi siamo tolleranti. No, tolleranza zero, bisogna rispettare le leggi e solo così si va avanti. La risposta naturalmente ai quesiti degli sms già l'ho data. L'approccio deve essere di tipo culturale, non convenzionale. Il fallimento del Mezzogiorno è proprio quello che indicano, nel senso che la gente ha confuso l'opportunità che gli era stata offerta in una politica di assistenza su cui adagiarsi per il futuro. Non ci sono le risorse, questo è assolutamente falso, prima perché è la Banca Europea degli Investimenti che dice non ci arrivano sufficienti progetti del Sud. Secondo, come è noto, non riusciamo neanche a utilizzare tutti i soldi delle politiche di coesione europea, quindi mancano i progetti. Terzo e ultimo, facendoci i calcoli esattamente sulle quote che spettano non solo a livello di paese ma a livello di area del paese, abbiamo valutato che con la politica di quantitative easing della BCE il Mezzogiorno, se volesse, potrebbe chiedere 140 miliardi da veicolare attraverso i propri progetti. Naturalmente, e per far questo, il parco progetti deve essere bello che pronto e bello esecutivo, insomma. Quindi è che la stessa BCE consideri il problema della ripresa del Mezzogiorno il problema è fondamentale non solo per l'Europa ma per la stessa sopravvivenza dell'euro. Ecco, io devo dire, questa conclusione per la stessa sopravvivenza dell'euro dovrebbe essere centrale per dei politici un po' lungimiranti, cioè l'euro asimmetrico non si sostiene, e non si sostiene non solo perché c'è la piccola Grecia che è asimmetrica, non si sostiene perché per tutte le parti regionali asimmetriche che convivono in un'area moneta comune, perché l'effetto di un unico tasso di interesse, quando ci sono asimmetrie di produttività, mercato del lavoro, di efficienza di trasmissione dei segnali della politica monetaria, quindi banche efficienti eccetera eccetera, resta insostenibile in quanto tale. Questo è un punto di fondo, non so quanto la politica lo abbia capito in questi anni di crisi, ma è un punto di fondo. Qualche riflessione dai nostri ascoltatori con le telefonate, poi da restituire ai nostri ospiti nei loro commenti. Pasquale da Reggio Calabria, prego Pasquale. Ciao, chiamo da Catanzaro, capoluogo di regione. Perdono. No, figurati, ci mancherebbe altro. No, sicuramente chiamo dalla Calabria. Ovviamente una delle cose gravi che sono successe in quest'ultimo periodo, noi abbiamo cambiato il presidente della regione e il governo ha pensato bene di non dargli il commissario alla sanità, anche se c'è un decreto che in teoria non lo dà più ai presidenti della regione, però il nostro presidente della regione è stato definito prima di questo decreto, eppure c'è stato un braccio di ferro tra Renzi e il nostro presidente, perché il nostro presidente, pur del PD, appartiene ad un'area diversa, quindi anche questi atteggiamenti. Quindi secondo te questa però è stata la vera ragione? Ma non vi è dubbio, tant'è vero che il vice commissario è di NCD. Ma la cosa che io volevo dire, e ci tengo tanto a dirlo, è che secondo me non c'è nessuna volontà da parte dello Stato di investire sul Mezzogiorno. Io capisco le critiche sull'assistenzialismo, però quando sul porto di Gioia Tauro si traccheggia, quando la Salerno-Reggio Calabria, che è di competenza statale, non viene finita in 30 anni, quando la ferrovia ionica è ancora diesel, quando tutte queste cose non vengono messe insieme, vuol dire che non c'è la volontà di uno sviluppo del Mezzogiorno. Gioia Tauro, e non lo dico io, basta parlare con grandi analisti, è uno dei grandi motori della nazione non attivati, non della Calabria. Per carità, poi lì ci sarebbe una riflessione, abbiamo fatto nelle puntate dedicate ai porti, perché poi c'è anche un problema della crisi di quel tipo di porto, che è un porto di transshipping e così via. Comunque, detto questo, è un po' inoppugnabile quello che dici. Non so se sia un problema più grave per questo governo che per altri. A me sembra che ci sia una linea di continuità tra loro. Ecco, Renzi su questo non è stato discontinuo, questa è la mia opinione, ha lo stesso atteggiamento di sostanziale indifferenza rispetto a questo problema del gap, delle asimmetrie interne al nostro paese. Sentiamo Ivano da Pescara, prego Ivano. Sì, buonasera Giannino. Senta, allora intanto se è il caso di parlare di mezzogiorno o di mezzogiorni, io sono per metà abruzzese e per metà calabrese, certo. Le realtà sono diverse. Poi il discorso dei fondi al mezzogiorno è una conseguenza, il problema è che a mezzogiorno non funziona la gestione pubblica, per cui bisognerebbe cambiare mentalità, cambiare approccio. Il Mezzogiorno dovrebbe diventare è un'opportunità per tutta la nazione, e non deve essere vissuta come un problema, ma è il caso, secondo me, con un tavolo nazionale di elaborare una normativa specifica per il Mezzogiorno, e forse sarà un po' forte. Al Mezzogiorno la democrazia in talune aree non funziona, per cui a livello istituzionale bisognerebbe commissariare quantomeno quelle parti di politica che gestisce i fondi, lo sviluppo, perché sennò potremmo avere i migliori progetti del mondo, e ce ne sono, ci sono le risorse però umane. Però lei dice che il meccanismo decisionale, le classi dirigenti politico amministrative che non funzionano. Che dice il professor Paolo Savona su questo? Si riuscirebbe a dare una risposta con questi nuovi centri per la formazione delle classi dirigenti? Beh, tutti insieme il pacchetto che noi proponiamo. No, il discorso probabilmente è la parola culturale. Io non vorrei che anche gli ascoltatori non la capiscono. Gli ascoltatori non la capiscono, sembra una cosa troppo generica, troppo sfumata. Quando io dico cultura, io dico perché viene commissariata una regione? Perché a un certo punto non si completano le opere? Significa che ci sono dei vizi culturali interni al Mezzogiorno. Quindi la politica non convenzionale è quella che ti offre lo strumento, ma è dall'interno del Mezzogiorno, e io non ho dubbi che possa venire, dovrebbe che trova le energie e le risorse giuste. Allora, se no, andiamo da nessuna parte. Allora, io so che il tempo è breve, ringrazio il professor Paolo Savona e il direttore Alfonso Ruffo. Continueremo con un'altra puntata, però, perché qui ci sono tantissime telefonate che oggi non ho, per così dire, esaurito. E guardate che è una riflessione di fondo, quindi la rifacciamo la prossima settimana per approfondire. Intanto continuate con la 24, appuntamento come domani.